Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non si può dire che non siano state appassionanti queste sfide scudetto del fine settimana. Se il Milan ha tremato con la Roma e può ringraziare oltre a sempiterno Ibrahimovic anche la presunzione di Totti che ha fallito il colpo del KO per l'antica fregola del cucchiaio, la Juve a sua volta ha rischiato per una buona ora contro l'Inter, un po' meno di un'ora forse, e può dir grazie a Buffon se non si è trovata costretta come il Milan a dover rimontare. Poi Conte, che spesso è stato accusato durante questa stagione per la gestione dei cambi, ha certamente azzeccato ieri sera le mosse che hanno cambiato la partita. Fuori Matri e Pepe, difesa più protetta con Bonucci e più sicura, più tranquilla, Cáceres liberato sulla destra e Del Piero nei panni Del Piero a fare un po' più di quello che ha combinato Matri. Beh, insomma, morale, oltretutto con la doppia complicità della difesa interista, proprio Cáceres e Del Piero hanno firmato la vittoria per tradurre anche in opere, no, direi, la bontà di questi due cambi decisivi. Qualche numero: il gol di Del Piero è il numero 186 in Serie A, e nel mirino adesso ci sono i 188 di Beppe Signori. Cáceres è al terzo gol da quando è arrivato alla Juve a gennaio, 2 al Milan e 1 all'Inter, solo contro avversari con i quarti di nobiltà. Dopo Calciopoli l'Inter non ha mai vinto in casa della Juve, ha rimediato 4 sconfitte e un pareggio, e quella della Juve sull'Inter di ieri sera è la terza vittoria consecutiva, cosa che non accadeva da 15 anni tra il dicembre 95 e l'ottobre 96, e in quelle tre sfide segnò pure, mi segnala Franco Piantanide, segnò pure Antonio Conte in un Inter-Juve 1-2. Se invece parliamo di Milan, il Milan ha un punto in più dello scorso anno, 63 contro 62, ha segnato 8 gol in più di un anno fa, che sono praticamente quelli di Ibrahimovic, anzi sono concretamente quelli di Ibrahimovic, che era a quota 14 l'altro anno, adesso è a 22. Poi certo c'è da fare una riflessione prolungata, una riflessione in prospettiva su Thiago Silva, perché con Thiago Silva in campo la media dei gol subiti dal Milan è di 0,78, senza Thiago Silva sale a 1,08, e questo infortunio del centrale del Milan potrebbe pesare non solo nella doppia sfida contro il Barcellona di questi prossimi 10 giorni, ma anche nel prosieguo del campionato, perché la prognosi minima, a quel che si sa, è di un mese. Tra poco, come sempre, i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24, altri numeri, altre curiosità più avanti, a cominciare da quella che riguarda il Genoa, che nelle ultime partite ha ottenuto 4 pareggi e 4 sconfitte, è un bottino davvero da zona retrocessione, nonostante Girardino, è vero, non segni, ma abbia fornito 5 assist tutti a Palacio da quando col mercato di gennaio è arrivato al Genoa. Ma non è lì il problema dei genovani, il problema è in difesa, perché con 51 gol subiti il Genoa è la peggior difesa in assoluto di tutta la Serie A, peggiore di Cesena, di Novara, di tutti. Novara, tra l'altro, è la terza partita di fila che non prende gol. È vero che ieri doveva vincerla, ma insomma è l'ennesima riprova che almeno in quel settore la cura Mondonico ha funzionato, perché è stato lui oggettivamente a rassodare la difesa che nella prima fase, con il primo tesser di gol, ne aveva presi davvero tanti. I commenti principali della giornata di ieri, a cominciare da quello di Antonio Conte. Ma era una partita che dovevamo vincere, perché al di là di quello che aveva fatto il Milan, per continuare a fare quello che stiamo facendo, quindi secondo me è un campionato veramente bello. Ale in questo momento sta bene e quindi lo faccio giocare. E io il primo tempo ho faticato tantissimo a far capire ai miei calciatori che comunque dovevamo cambiare il gioco e sganciarci con i terzini. È stata una scelta fortunata. Riuscivamo poi con 3 difensori centrali, visto che loro lasciavano sempre Milito e Forlan a ripartire, eravamo più coperti, riuscivamo ad avere comunque sempre una copertura, no? con Bonucci. Questo era Conte. È normale che si è amareggiato Ranieri, perché insomma l'Inter la partita l'aveva preparata, considerato il momento della squadra, direi l'aveva preparata nella maniera migliore, l'ha interpretata nella maniera migliore, fatti salvi forse i primi minuti, per tutto il primo tempo e per la fase iniziale della ripresa, ma poi ha commesso uno di quegli errori da matita blu in un compito in classe di quelli che poi l'insufficienza, puoi fare bene tutto il resto, ma l'insufficienza l'hai già prenotato, un errore di grammatica grave su un calcio d'angolo. Ranieri. Ma il rammarico è questo, no? Aver fatto una buonissima ora di gioco e poi prendere gol su calcio piazzato, l'ennesima disattenzione, perché poi non erano neanche in tanti dentro l'area di rigore, mi sembra soltanto 4. Ci siamo fatti attirare da Vucinic, che è partito sul primo palo, tutti dietro, e abbiamo lasciato Casares solo, centrale, libero. Avevo visto che Obi cominciava ad avere difficoltà tra Casares e Vidal, e Poli era stato ammonito, volevo mettere una punta in più. Amareggiato perché la gara è stata bella, è stata vibrante, abbiamo creato tanto contro una Juventus che sappiamo che sta meritando quello che sta. Udine hanno giustificato il pallonetto di Totti col fatto che non poteva calciare secco per problemi muscolari. Secondo lei è attendibile? Boh, insomma, io non posso sapere, nessuno di noi può sapere in che condizioni fossero i muscoli di Totti, però io dico che un calciatore come Totti, se in quella situazione, su un regalo del genere di Abbiati, non può calciare forte e quindi non è sicuro comunque della propria capacità balistica in quel momento, cioè prendiamo per buona la scusa, apre a destra per Borini e lo mette in porta, perché sono 3 contro 2 o contro 1 addirittura, e quindi non ha che tirare su di sé il difensore, che è l'ultimo, aprire a destra, e poi comunque al massimo sarà Borini che sbaglia, non sarà lui che fa una cosa così goffa per voler tentare il colpo ad effetto ad ogni costo. Facciamo in tempo ancora a sentire, no, non facciamo in tempo, lo facciamo subito dopo. Vorrei sentire Montella, perché dopo l'intervallo, dicevo, perché oggi Catania è una delle squadre che gioca il miglior calcio, e dirò che ieri mi è piaciuto il Catania, mi è piaciuto Montella, lo spirito con cui la squadra non si è arresa dopo il doppio vantaggio del Napoli, ma mi è piaciuto anche molto che non abbiano fiatato sul fatto che nel primo tempo avrebbero dovuto non solo avere un calcio di rigore a favore, ma avere anche la superiorità numerica per l'espulsione dell'avversario di Aronica, che ha causato questo calcio di rigore. Mi sarebbe piaciuto, a parti invertite, sentire rispettivamente Montella e Mazzarri. Non crede, domanda Davide Pezzetti da Mantova, che dopo l'impresa di ieri Stramaccioni meriterebbe la panchina della prima squadra? Sarebbe un segnale molto forte da parte di Moratti per premiare il merito e non il nome. Del resto l'esempio di Guardiola è sotto gli occhi di tutti. Questo perché ieri l'Inter Primavera ha vinto questa Coppa dei Campioni giovanile, per cui il Milan stamane si è congratulato attraverso le parole di Galliani con una sottile perfidia, dicendo: non è una manifestazione riconosciuta all'UEFA, che in effetti la riconoscerà solo al prossimo anno, è la verità, ma insomma è pur sempre, e poi si è congratulato dicendo è stato certamente una vittoria di grande prestigio. Però Davide, le sembra un premio? Cioè questo disgraziato di Stramaccioni, lo dico con molto affetto e con molta stima, fa un'impresa di questo genere e per premio tu gli rifili la sola della prima squadra nelle condizioni in cui adesso? Io credo che sarebbe fare il suo male, e sarebbe un po' commettere l'errore, secondo me, che commise la Roma lo scorso anno con Montella, no? quando lo promosse dopo le dimissioni di Ranieri. Montella sta dimostrando quest'anno di essere un signor allenatore. L'altro anno fece quel che poteva, ma era indubbiamente poco, viste le condizioni della Roma. Ecco, magari Stramaccioni, se è così bravo, potrebbe avere un premio diverso, ma in prospettiva, non adesso che ci sono soltanto dei cocci da rimettere insieme, ammesso che ci si riesca. Piero Torino, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo fare un intervento su quello che ha combinato ieri Totti e, secondo il mio punto di vista, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, abbiamo avuto l'ennesima riprova che, secondo me, è soprattutto un campione di sbruffoneria. Penso che Baggio e Del Piero, campioni di modestia vera, non gli sarebbe mai passato nemmeno per l'anticamera del cervello di provare un cucchiaio sull'1-0 con la squadra che lotta per il terzo posto. Questa è la mia opinione, ascolto per radio, grazie. Continuo a rivendicare il fatto che tra Totti e Piero Baggio mi tengo Totti, toda la vita, ma non c'è dubbio che, senza chiamare in causa cioè senza esagerare come sempre, no? Si fa dalle nostre parti, abbia commesso un errore. Poi ripeto, l'ho già detto anche prima, lo ha spiegato lui, ha cercato di spiegare lui stesso invocando un indurimento muscolare, comunque un problema che non gli permetteva di calciare secco in quel momento. Allora, tanto uno può chiedere il cambio, oppure può trovare un'altra soluzione, può cercare l'appoggio con Borini. Secondo me lui voleva cercare il cucchiaio ad ogni costo, perché questo ce l'ha nel DNA, insomma. E gli è andata bene tante volte in carriera, stavolta gli è andata molto male, ha fatto non solo una brutta figura, ma ha fatto soprattutto il danno della Roma, questo è vero. Gianni, Siracusa, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini, buongiorno. Chiamo a proposito della polemica della settimana scorsa relativa a Cellino, cambi dell'allenatore e tutto quello che ne consegue. Cioè, io volevo fare una premessa. Allora, pronto? Dica, pronto? Dica Gianni. Sì, no, sentivo un rumore. Zamberini è un imprenditore del nord che è venuto ad investire a Palermo e al sud in genere, sia nel calcio che in altre attività. Le ricordo che la mafia ha ucciso un presidente del Palermo ed la società era ai tempi infiltrata dalla mafia, quindi un bel po' di coraggio per queste attività bisogna riconoscerlo. Poi per quanto riguarda gli allenatori che vengono cambiati, in tempi di flessibilità è un bel e di articolo 18 che viene cancellato, che è un bel lavorare, no? Non credo. Per ogni allenatore che viene esonerato ce n'è uno che trova lavoro, gli altri, chi sta a casa non perde lo stipendio. Voglio dire, c'è l'occasione per dei giovani di farsi un benefattore, quindi Zamperini e Cellino, benefattori del pianeta calcio. Grazie Gianni. Davide, Torino, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Senta, io parto dal presupposto che sono un tifoso della Juve. Io in questi mesi, anzi quest'anno, sto vedendo un grande lavoro di Antonio Conte e anche della società, però vedere ogni volta questo nostro presidente che si attacca a questi famosi 29 scudetti, a me dopo un po' mi stanca. Ieri coreografie per questi 29 scudetti, per me tanto questi scudetti non li restituiranno mai alla Juve. Al massimo lui dovrebbe fare causa allora a Luciano Moggi, ma lui non lo fa perché è molto amico. Allora si mette una pietra sopra, stiamo facendo un ottimo campionato, il nostro allenatore sta facendo cose ottime, poi magari sbaglia, ovviamente ci vuole un po' più di esperienza. Però da quando abbiamo cominciato a parlare gli altri abbiamo cominciato a andare male. Ma guardi, Conte, sì, certo, è chiaro quello che dice Davide, io lo condivido certamente. Quest'anno ha certamente sbagliato molto meno Conte della società, anzi direi che Conte le ha azzeccate tutte, perché con una squadra, se non qualche dettaglio, ma insomma l'allenatore perfetto non l'hanno ancora inventato, però un allenatore che riesce a mettere insieme una Juventus così migliorata rispetto e così competitiva rispetto a quella dello scorso anno, tenga conto, sto guardando la tabella, che ha fatto 17 punti in più al momento di quanti non ne avesse realizzati la Juve dell'anno scorso. Ci sono altri giocatori, c'è tutto quello che si vuole, però c'è un'impronta, una mano, un sistema di gioco, una capacità di soffrire, una saldezza difensiva, non a caso è la miglior squadra della Serie A, e questo credo che sia il suo merito maggiore quest'anno. Questa voglia di non arrendersi mai, di ribaltare le situazioni anche difficili, di provarci in ogni caso. Ieri sera una squadra più prudente, forse anche più saggio della Juventus, ci avrebbe pensato su prima di provare a ribaltare la partita e provare a vincere ad ogni costo nella fase centrale del secondo tempo, perché sembrava una di quelle partite che se anche le pareggi non, tutto sommato non ti è andata così male. E invece no, sempre questa cosa, sempre il cuore oltre l'ostacolo. Poi ogni tanto a qualche campione che lo asseconda, ogni tanto no, perché ieri sera non c'era il Vucinic che ha trascinato la Juve al pareggio col Milan, no? E alla qualificazione col Milan, c'era il Vucinic in versione Hyde anziché Jekyll. Pirlo ben marcato, molto ben marcato da Poli, no? con una mossa legittima e intelligente, secondo me non era, anche lui non era lo stesso, però alla fine la Juventus ha vinto con pieno merito e potevano anche diventare tre gol. Insomma, uno che ha fatto un lavoro così, secondo me quest'anno, rispetto a come si è mossa e comportata la società, io credo non ci siano dubbi. ha fatto molto meglio Conte di quanto non abbia fatto Agnelli in questa stagione. Ernesto Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, grazie per darmi la possibilità di intervenire. Io sono milanista, volevo chiederle due pareri. Uno su Bonera, che io ritengo un giocatore per tutte le stagioni, diciamo, perché dove lo mettono, lui fa sempre la sua diciamo buona figura, perché anche l'altra sera quasi sempre, Ernesto. L'altra sera niente da dire, però vede. No, adesso la lascio continuare, però mi fa lo stesso effetto di Totti, no? Cioè Totti gioca a calcio da 20 anni, mi pare che qualcosina abbia combinato, no? Nella sua vita, tra cui 200 fischi a gol in Serie A. L'altra sera fa una sciocchezza, no? di grossa presunzione, e di colpo sembra che quei 20 anni vengano cancellati. Lei, sia pure con ben altra bonarietà, però sta dicendo che Bonera l'altra sera ha fatto un'eccellente partita. Non solo è vero, ma è verissimo, però non possiamo dimenticarci che in tutti questi anni Bonera è stato giustamente un rincalzo del Milan. Continui, la prego. Sì, ok, va bene, è la stessa cosa che penso io, però intendo dire che è un buon rincalzo. Nel senso, assolutamente, sì, questo anche prima, se poi è quello dell'altra sera è un eccellente rincalzo, un ottimo. La seconda cosa è, io vedevo sabato che ancora l'Albino Leffe continua a perdere. Se non mi sbaglio, una volta lo allenava il grandissimo Mondonico prima che avesse dei problemi, o sbaglio? Sì, l'ha allenato anche Mondonico. Secondo lei, io non è che voglio incentivare l'ennesimo licenziamento di un allenatore, però mi sembra che gli manchi proprio la fase difensiva con la squadra lì, perché ancora sabato ha fatto dei gol, ma ne ha presi un sacco. E magari Mondonico riuscirebbe ad aiutarli a salvarsi. Non lo so. Lei evidentemente ha la tentazione o la velleità della consulenza da panchina, io no, quindi mi limito a registrare quello che lei ha detto. Ma Chiellini, per essere ammonito, cosa deve fare? Domanda un ascoltatore. È una domanda che mi pongo spesso anch'io davanti al televisore. Giuseppe da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Sono un tifoso del Napoli. La mia telefonata è soltanto una richiesta di conforto. Un tifoso grato, ma disperato. Che cosa dobbiamo fare noi per evitare 7 gol nelle ultime 3 partite su calcio piazzato? Ecco, volevo la sua analisi. Organizzarsi meglio, con tutta evidenza, provare e riprovare in allenamento situazioni da contraerea, no? Perché è esattamente quello che in questo momento manca al Napoli. A maggior ragione pensando che adesso i punti di distacco dalla Lazio sono tornati tre. E poi che la Lazio stia giocando male, che sia ridotta ai minimi termini, che ieri abbia vinto anche in maniera casuale, non c'è dubbio, però questo problema sussiste, considerando il fatto che il Napoli domenica sera gioca in casa della Juventus, mi sembrerebbe, e che la Juventus vanta non solo gli attaccanti ma anche un sacco di bravi saltatori che arrivano da dietro, credo che in settimana questo potrebbe essere occasione di un buon ripasso da parte in allenamento da parte del Napoli. Facciamo una parentesi del genere: saranno famosi, perché per esempio Gabbiadini, che ieri ha segnato il gol chiave della vittoria dell'Atalanta su Bologna, già aveva fatto assai bene a San Siro, vabbè che contro Lucio oggi non è questa grande impresa, ma insomma aveva molto ben figurato, come si diceva un tempo, e ieri appunto è arrivato anche il gol decisivo. Gabbiadini: sono contento soprattutto per i miei compagni che mi hanno aspettato tutto questo tempo e soprattutto in questo momento un po' delicato con tanti infortuni e così, e abbiamo dato il nostro contributo sia io sia Simone, e siamo contenti per la vittoria, che è un gran pezzo in avanti. Con calma arriva tutto, bisogna avere pazienza, e è ancora merito del gruppo che te lo permette. Sì, anche l'Atalanta, ridendo e scherzando, ha 37 punti, sarebbero 43 senza la penalizzazione, e quindi questo vuol dire che sarebbe a un punto la Roma e 2 punti sopra l'Inter, ma non è detto che non ci arrivi in queste 9 giornate che mancano. Ancora un momento di pazienza per l'800 24 00 24. C'è un altro, in questo caso un difensore, che si sta mettendo in luce, gioca nel Chievo, ieri ha segnato il gol che ha dato il vantaggio al Chievo contro il Siena, poi pareggiato da Destro, che è un signor attaccante con probabilmente, se non un grande, un buon futuro di sicuro, ma ieri è stato favorito indubbiamente da una sciocchezza di Bradley, che era stato, che è stato sino a qui il playmaker del gioco dei veronesi, e ieri con un passaggio indietro sciagurato invece ha propiziato questo gol del pareggio del Siena. Sentiamo Acerbi. No, mi è stato fortunato a spostarmi, Siri mi ha beccato e ha fatto gol. Peccato, perché se vincevamo eravamo 80% salvi, 90. Peccato, però l'importante è la prestazione, abbiamo fatto bene, però dovevamo chiudere al primo tempo, avuto 3-4 occasioni nitide, dovevamo chiudere lì. Purtroppo il Siena è una squadra che non si rende mai, è sempre lì, poi con un nostro errore che ha fatto gol, però capitano, quindi andiamo avanti, adesso abbiamo Firenze, quindi lottiamo là. Ma non mi sembra che il Chievo fatti salvi eventuali sviluppi di inchieste, intendiamoci, che riguarderanno presto non soltanto il Chievo, un sacco di squadre che stanno lottando per salvarsi, ma insomma, fatto salvo questo, se leggiamo la classifica attuale, mi sembra che solo il Lecce abbia delle tre che stanno in coda, abbia speranze di riagganciare, a cominciare la domenica, perché gioca in casa contro il Cesena, quindi 27 punti potrebbero diventare 30, e a quel punto Parma 32, Siena e Fiorentina 33, Genoa 34, Cagliari 34, cioè quelle mi sembra che rischino più di quanto non possano rischiare Chievo, Palermo, Bologna, che 36-37 punti è tutta un'altra storia. Luigi, provincia di Fermo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Posso? Luigi, sì, in giornata. Io volevo parlare a proposito dell'Inter. Dunque, c'è un allenatore il quale è datato, pure lui come me, però insiste a fare questi movimenti. In un centrocampo di 4 giocatori, 2 ventenni e 2 ultra trentenni, nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, cambia chi? I 2 ventenni. Cioè, e ne mette altri 2 o fuori posto o altri 2 datati pure loro. Con ciò la squadra, che già soffre per questioni diciamo anagrafiche, ancora soffre di più. Avesse cambiato i 2 ultra trentenni, le cose sarebbero state meglio ieri sera, perché a un certo punto Del Piero è passato davanti a Stankovic, sembrava una vittorina. Stankovic era lento. Perché c'ha l'anno che c'è? Se ci avesse messo un altro giovane lì in mezzo, e 3 giovani e un vecchio, forse le cose erano un po' meglio. Ma questo l'ha fatto più di una volta questo signore, capito? È la stessa cazzata che ha fatto quando Sampdoria Roma. Piano Luigi è andato bene fino adesso. Direi che può bastare. Sentivo già qualche accenno di tracimazione. Fin qua era stato molto divertente con la littorina, mica la littorina, e poi oggettivamente con un'osservazione che tecnicamente ci stava, mi pare proprio. Gino, Milano, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio e grazie della connessione. Senta, io sono un sostenitore dell'Inter, non sono tifoso. Quello che non riesco a capire è cosa sta succedendo all'interno di quella società. Tutti se ne vogliono andare. Vinciamo la Coppa dei Campioni, intervistano un Milito, è la prima cosa che dice: ho già altre offerte, vedrò. Tiago Motta vuole andare a Parigi a tutti i costi, va bene, per i soldi se ne vuole andare. Muntari se ne va e rinasce. Ho sentito l'intervista a Branca a Sky prima della partita, parlava in ermetico, non si riusciva a capire niente di quello che volesse dire. Ma questo neanche ai tempi d'oro, questo deve essere per quello. Ma cosa succede? Cioè, secondo lei, come mai? Ah no. Gino, mi faccia grazia del perché. Al massimo le completo il panorama. A fronte di tutti quelli che se ne sono andati e se ne vogliono andare, ce ne sono alcuni altri, 5-6, che hanno un bel contrattino discreto, insomma, dal punto di vista dei quattrini, fino al 2014 compreso. E nel frattempo la loro anagrafe, oltre che il loro rendimento, non è più così rassicurante. E quindi è un problema serio, perché se ne vanno quelli che se ne sono andati, quelli che insomma qualcosa potevano dare, ma penso che sarà difficile far schiodare quelli che invece da dare non hanno più sto granché. Andrea, chiamato da Tavuglia, buongiorno. Ah, buongiorno signor Garanzini, salve, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre. Sì. Io sono classico romagnolo romanista, cioè classico, uno dei pochi romagnoli romanisti. Classico. Io ho sempre la mia squadra nel cuore, quindi guardo sempre i difetti, le cose che secondo me non possono andare bene. Ieri non ha parlato nessuno del fuorigioco di Ibrahimovic prima del inizio della stagione, del tiro che ha preso con la mano il giocatore della Roma, poi gli ha dato il rigore, senza considerare il fallo di Heinz che era atterrato proprio a centro aria. Mentre sul secondo gol di Ibrahimovic c'è stato un rigore d'attacco della Roma che hanno fischiato un fuorigioco a boia, disinteressato del pallone in una maniera assurda, gli è arrivata la palla alla mela al limite dell'aria su un tocco del difensore milanista e gli hanno fischiato un fuorigioco. Da lì Abbiati ha rinviato, è stato partito il lancio per... è passato quel paio di giorni ed è arrivata questo gol, no? Io non voglio dire, però. No, lei non vuol mica dire. Però io a lei con molta simpatia, se vuole anche affetto, domando: ma c'è questo meraviglioso programma di Biscardi che dopo 30 anni resiste, no? Nel panorama mondiale e planetario. Ma perché non chiamate Biscardi per questo genere di osservazioni? Perché voglio dire, avreste più udienza, sareste più soddisfatti voi e magari, come dire, disinquinereste invece altri appuntamenti. Stefano Novara, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo chiedere una cosa. Sì. Secondo lei ha perso una grande occasione la Juve quest'anno di poter, non dico stravincere, ma poter vincere il campionato visto adesso, Stefano, andiamo per gradi. Stravincere mi sembra una grande occasione di stravincere questo campionato, mi sembra un po' eccessivo. Non dico a parte che non ha perso nulla, cioè ci sono 9 giornate alla fine, sono 27 punti in palio, il Milan ne ha 4 di vantaggio, ma 4 punti su 27 sono pochi se ci fa mente locale. Quindi che occasione ha perso? No, per il fatto che il Milan ha avuto una marea di infortuni, questo volevo dire. Beh, il Milan ha avuto una marea di infortuni, però ha anche una rosa che evidentemente... gli consente di presentarsi in versioni accettabili, poi certe volte un po' coi cerotti e certe volte invece in condizioni migliori, però come si fa a dire che una squadra che migliora di 17 punti il rendimento dello scorso anno e che ne ha totalizzati 59 in 29 partite ha perso una grande occasione? Ma io non so come può venire in mente di fare un ragionamento di questo genere non avendo ancora perso nulla. Visto che lei parlava di infortuni rossoneri, allora qualcosa mi è vero che arrivederci e grazie per Thiago Silva, ma almeno Nesta, leggo da un'agenzia appena arrivata, ha smaltito i postumi del colpo al piede ed è pronto a rientrare mercoledì col Barcellona al posto proprio di Thiago Silva e Allegri ha recuperato anche Robinho e Maxi Lopez che sono rientrati in gruppo stamane, quindi 3 buone notizie dopo quella pessima, disastrosa di sabato. Luca Empoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io dovevo tirare le orecchie un po' a lei e un po' al signor Conte. Sì. A lei perché non è un grande stimatore del Piero, perlomeno questo si capisce quando la si affronta. E al signor Conte perché se la Juventus quest'anno perderà il campionato, un campionato molto mediocre da parte di tutte le squadre a cui partecipano, sarà colpa di questo allenatore che non fa giocare l'unico grande attaccante che ha la Juventus, perché anche Vucinic, che tecnicamente è molto bravo, è un giocherellone. Pensi Luca che è lo stesso errore che commetteva 6 anni fa o 7 anni fa Capello, no? in molte partite e pensi per l'appunto che nel frattempo sono passati altri 7 anni. Prima dell'appuntamento con Nicola Filippone, questa notizia d'agenzia appena arrivata. Eric Abidal stamattina si è allenato con il Barcellona e oggi pomeriggio pare proprio sia fissato l'appuntamento in clinica per il trapianto di fegato. Quindi, come dire, un arrivederci nelle migliori delle ipotesi, ma molto ragionevolmente un addio proprio nel giro di pochissime ore al campo da pallone da parte di questo sfortunato campione del Barcellona. Nicola Filippone ci dice che cosa è accaduto in un 26 di marzo. Sembra ieri. 26 marzo 1978. Allo Zaccheria di Foggia, la squadra di casa batte la Lazio con un netto 3-1. Le reti dei pugliesi portano le firme di Iorio, Colla e Del Neri, mentre il momentaneo pareggio biancoceleste viene realizzato da Garlaschelli. Il KO di Foggia costa il posto all'allenatore laziale Luis Vinicio, che verrà sostituito con una soluzione interna da Bob Lovati. In seguito ad alcune stagioni brillanti alla guida del Napoli, Vinicio era stato chiamato alla Lazio nell'estate del 76 per aprire una nuova fase dopo gli anni di Maestrelli. Ma dopo una buona prima stagione, conclusa al quinto posto, la seconda si era rivelata particolarmente complicata e continuerà ad esserlo anche senza Vinicio, dato che i biancocelesti otterranno una deludente salvezza di misura. Vinicio Orione, che ha compiuto 80 anni lo scorso 28 febbraio, peccato che sia lo stesso giorno in cui ha compiuto i 70 di Nozzoff, e quindi ha avuto un po' meno risalto questo compleanno di quello che avrebbe meritato. Avrà risalto, e come invece, immagino almeno, questa dichiarazione di Petrucci, presidente del CONI, rilasciata stamane. Non si capisce perché bisogna sempre discutere su tutto, anche su dove si debba giocare la finale di Coppa Italia. Mi auguro ci sia un passo indietro da parte di chi ha cervello. Tutte le leghe rispettano le regole, mentre alcuni presidenti di quella di Serie A non lo fanno. Tutto lo sport vuole e le rispetta queste regole, ma singole unità ritengono che con i soldi si possa ottenere tutto. Finché saremo noi ai vertici, tutti dovranno rispettare queste regole e non saranno certo i tribunali a farci abbassare la testa. Qualcuno in Lega oggi dirà che non gli frega niente le mie parole, ma noi andremo avanti come un carro armato. Non polemica, contro polemica che nasce dopo il tentativo già annunciato di De Laurentiis di spostare la finale di Coppa Italia da Roma a Milano per ragioni di capienza, non che a Roma si giocasse al Flaminio o in un campetto di periferia, intendiamoci, ma San Siro indubbiamente qualche migliaio di posti in più dell'Olimpico li può garantire. E allora chi se ne frega del cerimoniale, della tradizione, del capo dello Stato e di quel che segue. Artan, spero di leggere bene, dalla provincia di Lodi, buongiorno. Pronto? Dica, Artan, pronto? Ho detto bene? Artan? Pronto? Vabbè, se andiamo avanti al prossimo, pronto? Pronto? Artan, mi sente? Pronto? No, non lo sento. Evidentemente pronto? No. Giuseppe, passiamo a Napoli da Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, sono molto la trasmissione, però forse parla di tutto. Ma la sento un po' critico nei confronti del Napoli. Io sono tifoso del Napoli, ovviamente. Un po' troppo severo nei giudizi, diciamo. Come mai? No, dunque, severo, non credo. Il Napoli sta facendo una stagione, secondo me, eccellente, no? Complessivamente, perché è in finale di Coppa Italia ed è uscito con grande onore, direi, e con molti rimpianti da un ottavo di finale di Champions League in cui era non al debutto assoluto, ma insomma, forse Champions League sì, e comunque insomma, è uscito come ricordiamo. È quarto in campionato e quindi mi sembra che stia giocando un'eccellente stagione, che diventerà trionfale nel caso in cui riuscisse ad agganciare il terzo posto, da cui dista soltanto 3 punti, e a maggior ragione a vincere la Coppa Italia, che si giocherà con la Juventus in finale il 20 di maggio. Se poi parliamo soltanto di campionato, io credo che guardando questa classifica il Napoli, e pensando che ormai dalla Champions purtroppo è uscito, il Napoli potrebbe anche un po' mordersi le mani per una sottovalutazione nel girone d'andata, ma era purtroppo per il Napoli il tempo in cui bisognava battersi col City, col Bayern e cose per qualificarsi, quindi questo è quanto, nient'altro, né una parola di più né una parola di meno. Marco Pistoia, buongiorno. Ma anche Marco abbiamo qualche cedimento. Molti messaggi da Verona in particolare domandano come mai non siamo in diretta al Vinitaly come sempre. Accadrà mercoledì, perché come sempre ci si dà i turni, no? Le varie trasmissioni, i vari appuntamenti quotidiani di Radio 24 si alternano nello stand veronese del Vinitaly, una tradizione ormai decennale, anzi ultra decennale. Sta andando così anche quest'anno, nel senso che ci sono programmi che già da ieri, oggi, domani stanno andando in onda dal Vinitaly, a tempo di sport, lo farà mercoledì. Fabio ha chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Allora, io volevo rispondere indirettamente a un suo ascoltatore di prima, sono un tifoso juventino e a Conte più che tirargli le orecchie gli darei una pacca sulla spalla, perché per quello che sta facendo quest'anno memori delle prestazioni degli ultimi due anni, non si può pretendere tutte subito, anche perché dal mio punto di vista per ricostruire un ciclo ci vogliono anche dei tempi tecnici, per cui ritengo, e non so se è d'accordo con me, che Conte stia facendo un egregio lavoro, non ha ancora perso nulla, per cui, come diceva giustamente, mancano 9 giornate alla fine del campionato. E un altro complimento sempre a Conte per come sta utilizzando Del Piero, perché effettivamente forse ha capito come utilizzare un giocatore che a 37 anni può esprimere il meglio magari in determinati appuntamenti e essendo anche decisivo, con la speranza, visto che sono un ammiratore di Del Piero, che la società possa ripensarci e magari fargli fare un altro anno, perché un giocatore utilizzato così è meglio di un Borriello, me lo lasci dire. Grazie, grazie Fabio. Sono Luigi Anglani, tifoso del Lecce, e scrivo in merito a Novara Lecce. È una lettera, come dire, romantica. Per motivi di lavoro, per 18 anni ho vissuto a Novara, giocando a livello dilettantistico in vari campionati nel novarese, e una delle cose che subito mi rapì furono i campi in erba, in erbetta anzi, tutti. Mi sembrava un sogno, abituato a quelli pugliesi, A 44 anni ricordo ancora con estremo piacere l'odore dell'erba bagnata dello stadio novarese intitolato al Grande Piola. Vedere ieri la partita mi ha fatto tristezza su quel campo artificiale, pensando che con quelle condizioni meteo si potrebbe continuare a coltivare i biliardi di un tempo. Grazie a questo appassionato Luigi Anglani, grazie a Nicolò Rinaldi in regia, Franco Piantanida in redazione. Appuntamento a domani.